Ha sicuramente avuto un forte contributo in questa visione così negativa, in questi comportamenti che da un lato, come dice il Presidente Guzzetti, sono incoraggianti, la tenuta del risparmio e soprattutto il valore che gli italiani attribuiscono al risparmio, e dall'altro appunto una situazione che sembra appunto deteriorarsi. Da un lato abbiamo una percezione di una gravità crescente della crisi, addirittura 2 italiani su 3 pensano che il peggio debba ancora arrivare, per cui siamo in crisi da 3 anni, spostano sempre più in là il termine presunto di fine della crisi, prefigura una crisi che durerà ancora 4 o più anni, mamma mia. In una situazione di questo tipo evidentemente il risparmio rappresenta un elemento di sicurezza, da un lato per poter far fronte, come dire, alle spese quotidiane e poter comunque garantire la tenuta del potere d'acquisto, dall'altro evidentemente come rassicurazione rispetto al futuro, tenuto conto del fatto che si aspettano, a differenza di quanto rilevammo 10 anni fa, un futuro post-lavoristico, quindi una pensione decisamente molto preoccupante. E cosa vuol dire che gli italiani però tornano a investire ma crolla il mattone? Significa che una delle domande che poniamo ormai da 10 anni è: qual è secondo lei l'investimento ideale? Allora, il mattone è da sempre ai primi posti, però in realtà vediamo che c'è un calo molto brusco della citazione dell'investimento in mattone, dal 54% al 43%, e noi lo colleghiamo, diciamo, a 3 elementi. Il primo, che c'è la percezione di una flessione del valore degli immobili. Il secondo, l'aumento dei tassi, e il terzo aspetto, si sta parlando da tempo di una possibile tassa patrimoniale o addirittura la reintroduzione dell'ICI, e questo rende un po' meno appetibile il mattone. Che cosa cresce? Crescono 2 voci. La prima, gli strumenti finanziari più sicuri, e quindi sostanzialmente i titoli di Stato e le obbligazioni, che passano dal 23% al 30% nelle preferenze delle persone che abbiamo interpellato, e la seconda, un po' più preoccupante, il fatto che cresce di 5 punti, da 18 al 23%, la citazione "nessuno, non investirei, non esiste per me un investimento ideale", 1 su 4 circa.